chiusa, poi sono salito a casa, ho fatto la spesa, perché già lo sai che siamo a Ovesci e qui tocca a me, puoi fare due sigarette, puoi fare la spesa, e puoi portare quello, puoi portare quell'altro, cosa del genere. Cazzo, ci passo tutto il giorno. La vita nostra è così. Già lo so, infatti. Non è che tu dicendo niente a Simona, no? Grazie a Dio. Già me l'ha detto che ti ha chiamato quando sono entrato. Già lo so già. Cosa ci vuoi fare? Prima fai entrare, una volta che poi sei dentro, ti sbatti le balle, ti prendi la macchina nuova, te la paghi piano piano e sei tranquillo. Adesso non pensare proprio a niente. Io faccio la stessa cosa, quando sono proprio sicuro di essere dentro, vado e prendo quello che mi serve. Il problema è quello lì. La cazzo che non la posso neanche tenere piegata. Che cosa? La gamba. Ah, per i dolori, vabbè. Guarda, io stessa cosa stamattina, il ginocchio, appena mi sono alzato beve, alle 5 del mattino. Uiaia. Ah, è il fatto che come stai in piedi, ti viene ancora di più il dolore, capito? Sì, già lo so. Che stai in piedi, stai seduto, no, la questione non cambia. Il fatto che adesso siamo, senza fare nulla, per dire. Quindi, poi ti alzi in piedi, magari rimani tu quanto giorni in piedi, tra una cosa e l'altra, per uno sforzo e cose roba del genere, ti crepa le ginocchia. Adesso vediamo. Se il 20 mi chiama quello di Piazza d'Italia, fa almeno una giornata, fammi almeno 60 euro, vediamo un po'. Me lo auguro che ti chiami. Almeno meglio di niente, insomma. Sperando che non esca dall'aria. Ahi, c'è del tempo ancora, non ti preoccupare, a quando al 20. Mancano 8 giorni, stiamo preparando. Vabbè, ma mi sembra che non ho segnato peggio per niente, quindi ne siamo tranquilli. Vabbè, quello già è vero. Intanto domani verso le 10:30 sono da Nicoso, che devo fare un lavoro lì, hai capito? Io devo andare.